come all'inizio della sua vita ha cercato di arrivarci attraverso il socialismo. Poi con la delusione di Pol Pot, di Mao, di Stalin, eccetera, ha cercato di arrivarci in una qualche altra maniera, ma quale maniera? Non certo il materialismo, non certo l'economia al comando, la globalizzazione. No, lui amava la terra troppo per vedersela unificare in quel modo lì, con l'unico scopo di permettere all'economia di raggiungere il massimo del guadagno. E questo lo addolorava sul serio, perché diceva: decidiamoci, perché se vogliamo distruggere il passato non lo si ricostruisce più una volta che ce ne pentiamo, per cui bisognerebbe sapere oggi dove vogliamo andare, oggi decidere fra il progresso e il futuro e quanto del passato vogliamo sacrificare. Tiziano Terzani, non un guru, ma un uomo che preferiva farsi domande, non dare risposte. Un uomo che ha aspramente criticato il consumismo sfrenato e la violenza e che alla fine della sua vita ha voluto lasciare soprattutto un messaggio di pace. Ho scritto delle lettere contro la guerra, non contro questa guerra che stava per venire, ma contro tutte le guerre finalmente, perché dopo aver fatto per tutta la vita il corrispondente di guerra, mi pareva fosse venuto il momento di dire che in verità mi sentivo ormai un uomo di pace. Proprio perché la guerra le ho viste, ho visto i morti, i corpi martoriati, i villaggi distrutti, i cadaveri abbandonati sul bordo della strada a gonfiare e ad essere mangiati dalle mosche. Allora mi sono rimesso in viaggio, lentamente, col mio piccolo computerino, e ho scritto queste lettere per mio nipote, perché un giorno dovrà decidere fra la pace e la guerra, e secondo me la non violenza è l'unica chance che l'umanità ha di sopravvivere. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena. L'appuntamento è domani alla stessa ora.